Nessun luogo, nessun luogo è lontano, di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatori. Anche quest'oggi su Radio 24, Nessun luogo sarà lontano. Anche quest'oggi cercheremo di rendere il mappamondo un po' più piccolo. Una buona giornata anche da parte di Valeria Coffaro, che è in redazione con me a confezionare il programma, e da Fabio Cantadori, che è alla parte tecnica. Domenica scorsa l'esercito israeliano ha iniziato a smantellare il muro di protezione eretto nel rione di Gilo a Gerusalemme per difendersi dai lanci dei razzi da Beit Jala. Cade un muro? Si apre forse una nuova pagina della storia israelo-palestinese? E poi lo sapete che ancora oggi nel mondo sopravvivono decine e decine di muri? Cipro, Gaza, Belfast, Sahara Occidentale, Arizona, Corea, muri che dividono, separano, proteggono. Di questo parliamo oggi a Nessun luogo è lontano. Le coordinate per interagire con noi sono gli sms al 349-238-6666, le email a nessunluogo@radio24.it e poi siamo anche su Facebook alla pagina Nessun luogo è lontano. Allora, i muri, oggi ci concentreremo su due storie, in particolare su due barriere, sulla loro storia, ma siccome Nessun luogo è lontano, io intanto vi porto a Gerusalemme, a uno dei valichi di Gilo. Le voci che sentite sono quelle delle centinaia di palestinesi che ogni mattina all'alba affollano uno dei due passaggi di Gilo a Gerusalemme, gente che si reca al lavoro, gente che convive con la partizione, gente che insomma vive all'ombra del muro. Allora do il mio benvenuto a Sergio Minerbi, giornalista, collega, nonché professore da Gerusalemme. Sergio, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Sergio, la notizia è fresca, il muro di Gilo viene abbattuto, l'esercito israeliano lo sta smontando. Perché questo muro viene abbattuto? Beh, dopo circa 10 anni di esistenza si è considerato che attualmente il muro non ha più senso, in quanto i dirimpettai palestinesi, gli abitanti di Beit Jala, sono tornati alla vita civile dopo essere stati occupati da terroristi del Fatah, e adesso possono finalmente essere liberi loro e liberi gli israeliani dei colpi che venivano dalle loro finestre. Se non sbaglio, Sergio, è la prima volta che gli israeliani, invece di costruire, di aggiungere tassello dopo tassello una barriera, invece la abbattono. Beh, non sono sicuro che sia la prima volta, perché queste barriere vengono erette secondo le necessità e montate quando non sono più necessarie. Questo è il caso appunto di Gilo. Dopo circa 10 anni era una barriera di circa 2 metri di altezza, molto ben dipinta nel suo lato interno, e alcuni abitanti hanno anzi espresso delle preoccupazioni perché questo potrebbe invogliare male intenzionati a ricominciare a sparare a loro addosso, ma io penso che queste preoccupazioni siano inutili. Allora, forse è prematuro decidere se si apre, se si va a scrivere una nuova pagina nella storia tormentata e controversa dei rapporti tra israeliani e palestinesi. Una cosa è certa: in quella parte lì di Cisgiordania Salam Fayyad sta lavorando per la pace, sta lavorando per evitare attacchi. Sergio? Sta lavorando per rimettere ordine nelle sue fila. Questo è il primo scopo che ha Salam Fayyad, premier palestinese, è quello di riorganizzare la vita civile nella Cisgiordania dell'autorità palestinese. Non lo fa per i begli occhi degli israeliani, lo fa soprattutto per i palestinesi stessi, e i risultati positivi sono già arrivati prima ancora del battimento di questo muro, in quanto sul piano economico la situazione è enormemente migliorata. Ecco, l'economia, il significato economico dei muri. I muri incidono fortemente nell'economia sia israeliana che palestinese. Proprio nei giorni in cui Tel Aviv celebra la ripartenza in qualche modo della sua economia, della sua macchina economica, ma anche i palestinesi, insomma, non stanno messi male in quanto a conti. Volevo con te cercare di fare una riflessione su quanto i muri possono essere strumenti economici. Partiamo dal costo. E costa tanto a Israele erigere queste barriere, che non sono sempre muri, a volte sono filo spinato, sono recinti? Sì, la barriera, quando è in calcestruzzo, è naturalmente carissima, ma parliamo di barriere che sono alte fino a 8 metri e quindi hanno dei costi favolosi, ma il loro scopo principale è quello di impedire ai terroristi di sparare contro i civili israeliani. Questo scopo è stato raggiunto dalle barriere che sono state erette, quindi il costo passa in secondo ordine. Poi c'è un costo che invece è quello pagato dall'altra comunità, che è quella palestinese, perché nel momento in cui ci sono valichi da superare e ci sono chilometri in più da fare e ore d'attesa, abbiamo sentito le voci, no, dei palestinesi al varico di Gilo, c'è gente che si alza alle 2, alle 3 del mattino per andare a lavorare alle 7. Quello è un costo di cui dobbiamo tenere conto. Certamente è un costo ed è certamente un disturbo notevole, però... ci sono alcuni che preferirebbero di poter alzarsi la mattina presto e andare al lavoro, ma non possono perché abitano nella striscia di Gaza e il Hamas non permette l'idea di lavorare in Israele. Ecco, invece passiamo al loro impatto sull'economia. Abbiamo citato Gaza, che, come dire, ha una situazione estremamente differente da quella della Cisgiordania. Dicevi, l'economia palestinese funziona, sta ruotando, mentre a Gaza l'impatto economico dei muri va misurato da un altro punto di vista. A Gaza non ci sono muri, ci sono solo reticolati. Sì. Però a Gaza c'è il governo del Hamas, non quello di Salam Fayyad, non quello dell'autorità palestinese. Il Hamas non riconosce Israele, non vuole nessun tipo di negoziato, non ammette nemmeno la più pallida speranza di arrivare alla pace. L'unica cosa che le interessa sono di scavare gallerie verso l'Egitto per contrabbando di armi. Ecco, allora, da un lato il muro, il reticolato che va a incidere sull'economia più sotterranea, è il caso di dirlo, perché a quel punto sì, bisogna alimentare in qualche modo la macchina economica, però non solo quella, come dire, la macchina da guerra di Hamas, ma passano anche generi di prima necessità, passa un po' di tutto, passano spose dall'Egitto, però certamente un'economia, quella di Gaza, che in qualche modo, come dire, gira poco e anchilosata proprio da queste barriere. Sì, ma i generi di prima necessità, al ritmo, se non erro, di 160 autocarri di tipo semi-trailer con rimorchio al giorno, 160 autocarri al giorno, le necessità economiche vengono certamente in gran parte riempite, soprattutto per quanto riguarda la farina, il grano, i mangimi, eccetera. Quindi rimangono altri gingilli di tipo bellico che non possono passare. Allora, un'economia che va, come dire, che è toccata dalla costruzione di reticolati e di muri, di questo stiamo parlando oggi. Posso saltare un attimo di palo in frasca, Sergio, perché prego. Ho visto che il sito online di Arez, proprio in queste ore, riportava, insomma, con grande spazio la notizia di una soldatessa israeliana che è stata fotografata sorridente accanto dei prigionieri palestinesi. La soldatessa, ex soldatessa, perché adesso non è più in servizio, Eden Abergil, ha scritto nella sua pagina di Facebook: il momento più bello della mia vita nell'esercito. Ho visto, mi sembra di capire, un'anime condanna da parte della stampa e dell'opinione pubblica israeliana. Sì, ma non solo un'anime condanna della stampa, certamente hai ragione, ma il portavoce ufficiale dell'esercito ha detto che questo è un caso di cattiva condotta della soldatessa e abbiamo trasmesso questi fatti ai suoi comandanti, anche se non è più nell'esercito, e noi vogliamo assolutamente salvaguardare l'onore dei palestinesi che vengono fermati e quindi non ammettiamo assolutamente casi di questo genere. D'altra parte il fatto stesso di fotografare un soldato all'interno di una località militare, sullo sfondo alle volte di carte geografiche o altre cose, come ha fatto la Bergil in altre fotografie, è un reato, e questo così viene considerato dall'esercito. Torniamo un attimo al capitolo muri, reticolati, partizione. Insomma, non basterebbero, credo, 20 puntate di trasmissione per dipanare la complicata matassa della questione israelo-palestinese. Questo abbattimento del muro di Gilò ti fa ben sperare, come dire, ci stiamo avviando a una nuova fase, ti dà un segnale, mi rendo conto, insomma, che può essere, come dire, forse un segnale emotivo più che razionale, però tu come lo percepisci da lì? Io penso che non solo sul piano emotivo, anche sul piano razionale, il fatto stesso che sia possibile immaginare di togliere una barriera di protezione che impediva a quelli che si erano inseriti nelle case di Beit Jalla di sparare sugli abitanti civili di Gilò è un fatto molto positivo. È la prima volta in 10 anni da quando il muro era stato eretto che viene adesso smontato. Io posso anche sperare che tutti i muri vengano smontati. Dipende dalla situazione dei nostri vicini, quando decideranno che preferiscono la pace a sparare sui civili, questo avverrà. Grazie. Allora, Sergio Minerbi, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie altrettanto. I muri nel mondo, siamo partiti da quelli della Cisgiordania, da quelli di Gaza, dai reticolati, sì, economie anche anchilosate, anche soffocate dai reticolati, è vero che a Gaza entrano generi, ma è anche vero che la striscia di Gaza ne ha continuo bisogno. La riflessione sui muri naturalmente non può che prescindere da una piccola rotazione del mappamondo per andare a cercare quelli che sono i muri nel mondo. Quindi abbiamo fatto questo, abbiamo ruotato il mappamondo e siamo andati a vedere quali sono quelle barriere che ancora sfidano il corso degli eventi e restano lì, a volte baluardi, a volte retaggi di politiche coloniali, a volte appunto di sanguinosi conflitti. Allora, lo stato dell'arte dei muri nel mondo, questo stiamo tentando di tracciare oggi a Nessun Luogo è Lontano. Muri che sfidano il corso degli eventi perché sono lì da decenni, muri che invece a volte hanno vissuto nel corso degli anni progressive implementazioni. Di questo cercheremo oggi, questo cercheremo di fotografare oggi. Nessun luogo è lontano. Sono trascorsi 20 anni dalla caduta del muro di Berlino, ma le barriere che ancora separano stati e popoli sono più di quante possiate immaginare. Non lontano dal muro israeliano di Gerusalemme, in territorio europeo, Nicosia, la capitale di Cipro, è divisa da oltre 30 anni. La comunità turco-cipriota e quella greco-cipriota si tengono così a debita distanza dal 1974. Stessa sorte tocca alle comunità cattolica e protestante nel nord dell'Irlanda, dove le cosiddette linee della pace, apparse circa 40 anni fa a Belfast come misura temporanea, resistono ancora oggi e sono aumentate a circa 90 nelle 6 contee del nord dell'isola. Una barriera nel deserto del Sahara divide invece la popolazione sahrawi da quella marocchina, che si contendono la regione del Sahara occidentale dalla ritirata della Spagna nel 1976. E la stessa Spagna ha deciso di costruire 2 barriere a protezione di Ceuta e Melilla, le sue 2 città situate in territorio africano al di là dello stretto di Gibilterra, per prevenire l'enorme afflusso di immigrati africani. Per non dimenticare i 250 chilometri che separano la penisola coreana sul 38° parallelo, una barriera spessa 4 chilometri invalicabile da entrambe le parti. E non è finita. L'Arabia Saudita ha rinforzato i suoi 9.000 chilometri di confine con un recinto di sicurezza e un'altra barriera divide il Pakistan, ad est dall'India e ad ovest dall'Iran. Ma uno degli ultimi muri è stato eretto proprio da un campione della democrazia come gli Stati Uniti. A sud dell'Arizona, un muro metallico serve da prevenzione verso l'immigrazione illegale proveniente dal Messico. E allora c'è un muro nel cuore dell'Europa, l'avete sentito dalla nostra scheda, che è fonte di imbarazzo, imbarazzo diplomatico, imbarazzo militare, che è anche fonte di preoccupazione. E allora andiamo a Cipro. A Cipro, dove c'è la nostra Marta Ottaviani. Buongiorno Marta. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Marta, giornalista, autrice di Mille e una Turchia, partiamo dallo stato dell'arte. Il muro a Cipro si fa un pizzico più alto, mi sembra di capire, perché cosa è accaduto nei giorni scorsi? Il muro a Cipro si fa un pizzico più alto dopo che per mesi si erano succedute speranze per farlo crollare una volta per tutte. Come si prevedeva, le elezioni dello scorso aprile hanno portato al governo nella parte turca dell'isola un leader più conservatore, meno propenso alla riunificazione con la parte greca, e adesso i negoziati con Dimitri Christofias, ricordiamolo, presidente della parte greca dell'isola, quindi anche quella membro dell'Unione Europea, si sono incrinati, e proprio l'altro ieri la stampa greco-cipriota diceva che la soluzione si allontana, la soluzione appunto al problema della riunificazione dell'isola si allontana anche stavolta. Allora, Cipro, ex colonia britannica indipendente negli anni 60, ha vissuto in pace per pochi anni e poi è sprofondata nella guerra civile, perché le due comunità, quella greca-cipriota e quella turca-cipriota, poi si sono combattute. Dal 74-75 l'indipendenza della Cipro turca ha cristallizzato in qualche modo la situazione. Quali sono, Marta, gli attori in gioco? Perché, come dire, l'ingresso in Europa è un tassello fondamentale e questa indipendenza del nord di Cipro è un altro tassello che può essere utilizzato come leva politica, o mi sbaglio? Sì, il problema è che in questo momento il principale attore, sicuramente l'attore più in imbarazzo di tutta la faccenda, è proprio l'Unione Europea, perché dal 2004 l'isola di Cipro è ufficialmente entrata a far parte della Comunità Europea, ma in pratica è entrata solo la parte greca, perché la parte turca è occupata, come dicevi tu giustamente, dall'esercito di Ankara dal 1974. E adesso si assiste a una situazione paradossale: c'è un'isola spaccata in due, una parte è in Unione Europea e l'altra è occupata dalle truppe di un paese che sta facendo tutta una procedura negoziale per entrare in Unione Europea. Il problema è proprio, gli analisti più critici nei confronti di Bruxelles dicono che nel 2004 si è posta una pietra tombale sul problema, perché sì, avere permesso l'ingresso di una parte dell'isola in Unione Europea senza pensare prima alla riunificazione di tutto il territorio ha voluto automaticamente indirettamente dire escludere l'altra parte dall'ingresso appunto nella comunità, e soprattutto anche sbarrare il passo alla Turchia, perché in questo momento il cosiddetto nodo Cipro blocca ben 5 capitoli negoziali a cui la Francia, nota oppositrice dell'ingresso della Turchia in Unione Europea, è particolarmente affezionata. Ecco Marta, mi piace insistere sull'aspetto economico dei muri, perché, come dire, abbiamo visto Gaza, Cisgiordania, dietro a ogni muro ci sono motivazioni e conseguenze economiche. Ecco, nel caso di Cipro che cosa succede? Abbiamo due regimi totalmente diversi, vero, dell'economia? Abbiamo due regimi totalmente diversi, perché la parte greca di Cipro beneficia logicamente di tutti i finanziamenti previsti dai paesi membri, per i paesi membri dell'Unione Europea. La parte turca no, perché il paradosso è che la parte turca viene riconosciuta internazionalmente solo dalla Turchia. Vi faccio un esempio: se un ragazzo che nasce a Cipro Nord, quindi parte turca di Cipro, vuole andare a fare l'Erasmus, deve prima passare da un'università turca e poi chiede appunto portare avanti la sua pratica con un'università europea. Ma se si viene a sapere che frequenta una delle università porte sul territorio nord cipriota, per loro, per l'università europea, quello studente non esiste. C'è stato anche un fatto abbastanza comico qualche mese fa: la nazionale turco-cipriota aveva chiesto di poter giocare un amichevole in Europa e non gli è stato concesso, proprio perché, non essendo riconosciuto lo Stato, automaticamente non vengono riconosciuti neanche gli atleti. mesi. A parte questi episodi singoli, diciamo, la grossa differenza è che c'è una parte dell'isola che beneficia appunto di proventi europei e che è molto sviluppata, diciamo, invece l'altra che vive in condizioni di arretratezza notevole. Grazie allora Marta per la tua analisi, come al solito precisa e puntuale. Una buona giornata e un buon lavoro. A voi, buona giornata. Puntata di Nessun Luogo è Lontano, che subisce una variazione perché l'avete sentito, la morte di Francesco Cossiga. Allora i colleghi della redazione sono pronti per parlarcene, noi abbiamo il tempo però di lanciare il nostro WhatsApp e dare un'occhiata alle notizie dall'altro lato del mondo. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. E partiamo dal Maghreb, perché è arrivata la notizia che gli ostaggi catalani in mano ad Al-Qaeda del Maghreb sarebbero vivi. Sono vivi e stanno bene, le famiglie hanno ricevuto dall'organizzazione terroristica una prova, l'hanno ricevuta ieri, la prova arriva da un ONG di Barcellona, Acció Solidaria. Albert Vilalta, 35 anni, e Roque Pascual, 50 anni, volontari di questa organizzazione, erano stati rapiti con la collega Gomez, 39 anni, in marzo in Mauritania. E poi vi porto in Sudan, dove in Darfur sono stati espulsi 4 operatori della Croce Rossa Internazionale, della FAO e dell'Alto Commissariato dei Rifugiati per l'ONU. Sono stati espulsi senza apparente motivo, ne ha dato una notizia il quotidiano sudanese indipendente Al-Sahafa. Nei giorni scorsi, l'avete sentito, la Spagna, anzi la Catalogna, ha detto no alle corride. Allora cosa succede? Succede che una città nel sud della Francia, Béziers, si offre per ospitare le tanto discusse corride. Si spara ancora a Mogadiscio, in Somalia. Ieri altri 9 civili sono stati uccisi e 53 feriti dai colpi di mortaio sparati contro un campo profughi nel sud della capitale. Continua così la drammatica lotta, il drammatico braccio di ferro tra gli insorgenti islamici Al-Shabaab e Hezbollah al-Islam e le forze governative supportate dai 6.000 uomini dell'AMI, insomma, a cui ricordo se ne aggiungeranno altri 4.000 nei prossimi mesi. In Ossetia, e questa è una notizia dell'ultima ora, un kamikaze è andato contro un posto di polizia, c'è stato un morto e almeno altri 2 feriti. La Repubblica Caucasica dell'Ossetia del Nord, ne avevamo parlato quando pochi giorni fa abbiamo raccontato come ci sia l'installazione di missili in Abkhazia e come Mosca, come dire, tenga stretta al guinzaglio le 2 repubbliche separatiste. E allora era l'ultimo WhatsApp di quest'oggi, non mi resta che salutarvi, ringraziare Valeria Coffaro in redazione, Fabio Cantadori in regia, darvi appuntamento a domani, sempre 13:15, ricordarvi che Nessun Luogo è Lontano.